Prima di parlare del carattere di Dio, occorre fare una precisazione. Il dizionario definisce il carattere come l'insieme dei tratti psichici, morali e comportamentali di un persona, utile a distinguerla dalle altre. In definitiva, non è altro che la personalità di qualcuno. Una tale definizione, riferita a Dio, risulta molto lacunosa perché il Dio dei cristiani non è una persona. Ma sono tre persone con caratteristiche diverse. Tanto è vero che nelle loro relazioni uno è il Padre, uno è il Figlio e uno è il Consolatore. Quando si parla di persona si vuole intendere che essi possiedono quegli elementi costitutivi della personalità e che sono l'intelletto o la capacità di pensare, la sensibilità o capacità di sentire, la volizione o capacità di volere. Queste caratteristiche associate all'autocoscienza e all'autodeterminazione sono comuni ad ognuna delle tre persone della Trinità. Inoltre le tre persone della Trinità sono coeterne e coeguali, aventi una stessa natura divina, per cui nessuna è prima e nessuna è dopo, nessuna è superiore all'altra, ma hanno diverse relazioni con il creato e la creatura. I teologi chiamano questa diversità Trinità ontologica e Trinità economica. La Trinità ontologica è riferita all'interno della Trinità dove le tre persone sono uguali in onore, gloria e potenza. Tre persone sussistenti nell'unico tutto indiviso e indivisibile Dio. La Trinità economica si riferisce alle funzioni svolte da ciascuna delle tre persone della Deità, distinte tra loro, nell'opera di salvezza. Questo perché ogni persona della Trinità ha un rapporto molto diverso con il creato e il genere umano, anche se, considerandone l'operato dal punto di vista dell'unica natura da esse condivisa, si può attribuire ogni opera individuale di una delle persone divine a tutte le tre. Perciò, in merito alla Trinità vi sono cose da affermare riguardo a ciascuna delle persone trinitarie e altre caratteristiche unicamente tipiche di una delle tre, non attribuibili alle altre due. Fatte queste precisazioni, noi ci riferiamo al carattere di Dio in senso ontologico, in riferimento alla Trinità nella sua essenza. Poiché il tema concernente Dio è sempre delicato e più che dibattuto nel corso dei secoli, è opportuno ricordare che non tutti si accostano alla trascendenza di Dio allo stesso modo. Alcuni, come Dionigi l'Areopagita vissuto intorno al 500, Dio è al di là di qualunque cosa, al di là quindi dell'esistenza, dell'essenza, della personalità, al di là di ogni essere. Questa completa trascendenza di Dio implica la via negativa o approccio apofatico, negativo alla teologia, secondo il quale noi parliamo di Dio non dicendo quello che egli è, la via positiva o approccio cataphatico, ma piuttosto dichiarando quello che egli non è. Questa visione della trascendenza di Dio mi sembra molto estremista perché se è vero che Dio è trascendente, ciò non significa che sia infinitamente remoto. Anche perché scorrendo la storia notiamo che al contrario egli si è compiaciuto di rivelarsi, cioè di far. L'Evangelista Giovanni, che ha scritto il suo Vangelo per dimostrare la divinità di Gesù Cristo, nel suo prologo dà questa testimonianza. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che lo ha fatto testamento ti ho conoscere, Giovanni 1.18. Barricarsi dietro ad una verità per negarne un'altra non è corretto, perciò se anche ovviamente tante sono le cose in merito a Dio a rimanerci sconosciute, ce ne sono tante, ma tante che ci sono state rivelate nella Scrittura, a patto che ovviamente se ne prenda sul serio il senso letterale. E se Dio ha rivelato se stesso tramite Cristo Gesù, non possiamo permetterci di scegliere una metodologia ermeneutica modellata dalle idee che preferiamo per poi respingere quelle che non ci piacciono. Dobbiamo prestare la dovuta attenzione alla realtà che la Scrittura ci presenta, per non cadere in quel romanticismo biblico assai diffuso. È molto difficile pensare che la Bibbia sia stata scritta solo per degli iniziati. Se noi crediamo veramente che mediante essa la Deità abbia voluto parlare all'uomo, non possiamo certo supporre che egli abbia nascosto la sua verità alle persone dotate di una normale intelligenza e che di conseguenza occorra cercare un senso nascosto dietro il significato letterale. Vale la pena allora abbandonare l'approccio della negatività e prendere sul serio quello della positività, cioè studiare seriamente quanto ci è stato trasmesso da profeti e apostoli e trarne le dovute conclusioni, senza essere tormentati dall'idea di un Dio sconosciuto. Chi fa così è simile ai credenti religiosi che parlano e credono in una divinità a loro inaccessibile e ignota. Questo è un torto nei confronti di Gesù Cristo, il quale disse ai discepoli che loro conoscevano il Padre. Alla replica di Filippo dimostragli il Padre. Il rimprovero di Gesù è sceso nel profondo del mio cuore, togliendo ogni radice di dubbio e accusando la mia cecità spirituale. Da tanto tempo io sono con te. E tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me, ha visto il Padre. Signore, tocca questo cuore. Recidivo. È vero che è possibile parlare del carattere di una persona solo quando la si conosce direttamente. E questo dovrebbe renderci tutti cauti nel fare dichiarazioni sul carattere di Dio, perché Egli è lassù, nei cieli e noi sulla terra. Chi può, quindi, aprir bocca con sicurezza riguardo al carattere di Dio? Noi possiamo capire il carattere del Dio Trino dalle sue opere. Ma, anche in questo caso, dobbiamo ammettere i nostri limiti, perché l'opinione che abbiamo oggi del carattere dei nostri genitori è molto diverso da quello che avevamo da bambini. La ragione sta nel nostro essere diventati più maturi. Chi di noi allora può dire di essere abbastanza maturo per capire il carattere di Dio? Inoltre, ognuno di noi riceve luce su di un aspetto del carattere di Dio in base alle peculiarità della propria personalità. Infatti, l'Eterno, cioè Jah-Weh, si mostra puro con i puri, pietoso con i pii, integro con gli integri, Salmo 18 e 25. Dio è troppo grande perché possiamo conoscerlo appieno, in tutti gli aspetti del suo carattere. Ecco perché se fosse chiesto ad ognuno di noi di descrivere il carattere di Dio, daremmo delle risposte diverse, anche se a volte complementari. Però bisogna aggiungere, vi sono caratteristiche della divinità degli ebrei evidenti per tutti, mentre altre è lui stesso a definirle. Ad Abramo, Yahweh si presentò come l'Onnipotente, perché più tardi gli promise un figlio, quando era impossibile per lui averlo. A Mosè, sul monte Sinai, Yahweh si è presentato come io sono, e cioè colui che era, colui che è, colui che sarà, vale a dire l'Eterno presente. In Esodo 34, 14, Jahweh si presenta come il geloso, cioè colui che non tollera che i suoi amoreggino spiritualmente con altre divinità. In Isaia 45, 15, il profeta riconosce che Jahweh Fodueh è una divinità che si nasconde, e questo perché Dio vuole stimolare in noi il desiderio di Lui. In Ebrei 1, 1 a 2, l'autore della lettera afferma che Dio, dopo aver parlato in svariati modi mediante i profeti, negli ultimi giorni ha parlato tramite Cristo Gesù, suo Figlio. Una caratteristica del Dio Trino è che Lui parla, mentre gli dèi delle nazioni sono idoli muti. Dunque, Cristo Gesù è la manifestazione e la voce del Dio Trino, per questo viene chiamato anche il Logos, cioè la parola di Dio, la parola che è stata fatta carne. Guardando quindi a Gesù, noi possiamo comprendere meglio il carattere del Dio Trino, dato che Egli ne è l'immagine visibile, poiché il Padre e Cristo sono uno in quanto a natura divina. E chi ha visto Lui ha di conseguenza visto il Padre. Il carattere del Dio Trino è delimitato da almeno quattro cose impossibili. 1. Talmente l'impossibile che Dio muoia. 1 Timoteo 6, 13, 16. Ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che, testimoniando davanti a Ponzio Pilato, rese una buona testimonianza di fede, di conservare questo comandamento senza macchia ed irreprensibile, fino all'apparizione del Signor nostro Gesù Cristo, che a suo tempo manifesterà il Beato e Unico Sovrano, il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale... Amen. L'immortalità è l'aspirazione forse più profonda del nostro essere, perché siamo stati creati ad immagine di Dio. Il libro sapienziale dell'Ecclesiaste afferma: Dio ha fatto ogni cosa bella nel suo tempo. Ha persino messo l'eternità nei loro cuori. 3.11. Solo il Dio trino degli ebrei e dei cristiani. Non ha avuto né principio né avrà fine, come neppure deriva da una causa. E non morirà mai perché non può morire. Proprio perché è immortale, Dio comunica all'uomo la sua immortalità. Questo è il più grande privilegio che l'uomo possa avere, tuttavia può anche diventare la sua più grande disperazione. Diventa il più grande privilegio per chi lo desidera ardentemente più della sua stessa vita. Luca 14.26, per chi ama la luce più delle tenebre, Giovanni 3.19, diventa invece la più grande disperazione per chi rimane fuori o lontano dalla presenza di Dio, per avere amato e praticato la menzogna. Apocalisse 22.15. Che Dio non possa morire, rimane comunque uno degli atti più grandi di fede, perché se si dice che Dio è il creatore possiamo vederlo dalle sue opere, ma asserire che Dio è eterno presuppone da parte nostra che siamo in grado di pensare l'eternità. E questo è impossibile perché noi siamo creature limitate e soggette al tempo, per cui il sempre è stato e sempre sarà, non può albergare nella nostra mente umana. L'eternità appartiene ad una realtà a noi completamente sconosciuta, come è completamente sconosciuto ad un pesce il deserto con la sua sabbia, o a un cavallo mangiare la pizza con la birra. Però, anche se l'eternità ci è completamente sconosciuta, il fatto di anelarla ne attesta già l'esistenza. Non si desidera e non si può desiderare ciò che è inimmaginabile. Non ti sembra? 2. È impossibile che Dio M.E. Nuovo Testamento A. E.S.I.P.E. Nuovo Testamento A. Neti. 23.19. Numeri 23.19. Tito 1.1-2. Dio non è un uomo da dover mentire, né un figlio d'uomo da doversi pentire. Sono più di 30 i brani della Scrittura che descrivono il pentimento di Dio. Quando la Scrittura afferma che l'Eterno si pente, il senso è che egli cambia atteggiamento, idea, programma, piano. Infatti, col diluvio, l'Eterno voltò pagina nella storia dell'umanità, cambiò idea dietro l'insistente preghiera di Mosè, cambiò programma riguardo all'elezione del re di Israele. Nel libro di Geremia 26.3, l'Eterno afferma chiaramente di essere disposto a cambiare le sue intenzioni se da parte dell'uomo vi è del pentimento. Ecco perché alcune traduzioni preferiscono usare parole come rincrescersi, addolorarsene, intenerirsi, revocare, quando invece la Scrittura afferma che l'Eterno non si pente, ciò è riferito al fatto che non cambia idea né intenzioni in riferimento ai suoi propositi, alle sue promesse, ai suoi doni, i quali sono immutabili e non condizionati dai peccati dell'uomo, perché, come afferma Giacomo, Dio non muta. A che servirebbe la nostra fede in un Dio la parola del quale non fosse affidabile? Dal momento che la fede cristiana si basa principalmente sulla testimonianza di Dio, 1 Giovanni 5:9-13, se egli mentisse, come sarebbe possibile essere sereni e rallegrarsi nelle delle sue promesse? Ebbene, i cristiani potrebbero anche essere delle persone che se la raccontano, ai quali piace pensare che Dio sia fedele anche se non lo è. Ma nel corso dei secoli più volte Dio ha dimostrato di non mentire, e poi è qualcuno che ha dimostrato la falsità e l'infedeltà del Dio trino manifestato in Gesù Cristo. Inoltre, per provare la sua fedeltà, Dio ha fatto scrivere le sue promesse in modo che gli uomini potessero verificare la validità delle sue parole. Farebbe questo un bugiardo? Uno che avesse lo scopo di mentire? Uno che volesse ingannare gli uomini? Direbbe: voi che ricordate all'Eterno le sue promesse, non state in silenzio. Isaia 62.6. Dio vuole essere preso in parola, vuole che noi ricordiamo ciò che ha promesso. E questo, per quanto sia possibile che mi sbagli, è sufficiente assicurare al mio cuore che dal carattere di Dio sono assenti sia la menzogna sia il pentimento riguardo alle decisioni prese. Ebrei 6.18. 3. È impossibile che Dio sia Tie Nuovo Testamento Antico Testamento o dal male, e Tie Nuovo Testamento, gli uomini Giacomo 1 e 13. Nessuno quand è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. La tentazione è un'esperienza che non esiste in Dio e non può quindi procedere da Dio. L'uomo è tentato dalla propria concupiscenza, dalla mondanità e dal diavolo. Qualsiasi religione o filosofia che insegna diversamente non procede dal Dio trino delle Scritture. Eppure, nonostante questa lapalissiana verità, nel cuore dell'uomo alberga l'idea che sia Dio a tentarlo. Perché? L'uomo non lo sa, ma è il diavolo, l'accusatore, a mettere nella mente degli uomini tali pensieri, mentre è lui che sta agendo. Cosa non nuova. Quando Gesù scacciava gli spiriti maligni nell'uomo, i suoi avversari dicevano che operasse per l'aiuto del diavolo, perciò nulla di nuovo se lo stesso diavolo mette nella mente degli uomini l'idea che quando sono tentati questa situazione stia venendo da Dio. Cosa molto strana. Gli uomini non vedono la mano di Dio quando tutto va bene, non pensano a Lui. Non lo ringraziano, ma appena sono tentati dal male ecco sorgere il dubbio che sia Dio ad agire. Ma se Dio non è tentato dal male, e questo si può credere, come può far fare un'esperienza a Lui stesso estranea? Qualcuno potrebbe insegnare a sciare, non avendo mai Lui stesso messo gli sci ai piedi. Potrebbe insegnare musica se non l'ha mai studiata. Ma andiamo dal lato morale. Potrebbe un bambino di pochi anni insegnare l'arte di sedurre una donna? Potrebbe un uomo profondamente onesto insegnare dei ladri a rubare? Così, se Dio non può essere tentato dal male, come può tentare l'uomo perché compia il male se questa esperienza gli è sconosciuta? Si potrebbe rispondere che Dio può tutto, che è onnipotente e perciò può fare ogni cosa. Ma questa è una conclusione che deve essere spiegata dato che nella sua sovranità e onnipotenza Dio si è imposto delle regole da Lui stesso stabilite, perché fanno parte del suo carattere. Regole che è libero di sospendere o di sottoporre a delle altre. In definitiva, il carattere di Dio è conforme a ciò che Egli è. Io come uomo posso decretare delle leggi solo in conformità alla mia umanità se voglio osservarle, altrimenti non agirei più da uomo. Così è Dio. Ciò che fa è parte del suo carattere. Se non può morire, è perché Egli è Dio. E non può neppure mentire, perché è la verità. 4. È impossibile che Dio rinneghi se stesso. 2 Timoteo 2 e 13. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dio mantiene ogni promessa, anche se noi non manteniamo le nostre, proprio perché i suoi doni e le sue vocazioni sono senza pentimento, cioè senza rimpianto, rammarico, dispiacere. Che diversità rispetto a noi uomini che siamo tentati a rimangiarci le parole, siamo stimolati a rendere pan per focaccia, o la moneta che abbiamo ricevuta. Il fatto poi che Dio mantenga le promesse, per coloro che hanno posto fede in Cristo sarà una benedizione, ma per gli increduli sarà ragione di condanna. Giosuè, al popolo di Israele che presto avrebbe abbandonato il suo Dio, profetizzò le seguenti belle e brutte cause. Ora ecco, io me ne vado oggi per la via di tutto il mondo. Riconoscete dunque, con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, che non è caduta a terra una sola di tutte le buone parole che l'Eterno, il vostro Dio, ha pronunciato nei vostri confronti. Si sono tutte avverate per voi, neppure una è caduta a terra. E avverrà che come tutte le buone cose che l'Eterno, il vostro Dio, vi aveva promesso si sono avverate per voi, così l'Eterno farà venire su di voi tutte le calamità, finché vi abbia sterminati da questo buon paese che il vostro Dio, l'Eterno, vi ha dato. Giosuè 23, 14-15. Il comportamento dell'Eterno nei confronti del suo popolo rispecchia il carattere di Dio. Nessuno come Gesù Cristo ha parlato tanto di benedizioni e di maledizioni, di condanna e di salvezza, di gioie eterne e di pene eterne. Se Dio mantiene fede alle sue parole per le cose positive dell'uomo, manterrà pure fede anche per le cose negative. Purtroppo si tenta di negare le pene eterne perché cozzano contro un nostro certo buon senso e la nostra morale. Ma se vi è certezza per il salvato, perché Dio è fedele, la stessa caratteristica di fedeltà presente in Dio porta pure ad avere certezza che l'incredulo sarà perduto. Noi non siamo liberi di pensare ciò che vogliamo e la verità la si accetta o la si rifiuta. Dio non può rinnegare se stesso, non può andare contro la sua stessa natura e il suo carattere perché non sarebbe più Dio, quel Dio che non ha mutamenti di alcuna sorta, che non è soggetto a nessuna causa perché lui è la causa di tutto. Un carattere, una personalità che non può essere diversa, perché se Dio fosse diverso io non esisterei. E neppure tu. È come pensare ad un cane diverso da quello che è. I cagnolini che nascerebbero non sarebbero più i cani che noi comunemente conosciamo. Così siamo io e te. Noi siamo fatti ad immagine di Dio, e se Dio fosse diverso, non saremmo la meravigliosa creatura che siamo. Non ci resta che essere riconoscenti e adorare Dio tramite Cristo Gesù. Dicembre 2009, Ellero.